Rock FM. Rock FM. Milano. Italy. Jethro Tull di Sweet Dream per il primo inizio della seconda ora di diretta di Fare Pure Rock and Roll senza la sigla. Ma perché è una puntata strana, è una puntata particolare, è il primo anno di vita di Pane, Burro e Rock and Roll e così, come accade in questa trasmissione radiofonica, ci si fa pigliare dall'attimo e quest'oggi vi stavo chiedendo se vi va di confessarci perché ascoltate Rock FM e tantissimi state scrivendo al 335-100-7777, ma io voglio sentirvi in viva voce perché è così che mi piace. Ciao Giuseppe. Ciao Ariel. Tra l'altro abbiamo scoperto insieme che è il tuo onomastico. Grazie. Perché è la festa del papà oggi. Non ci avevo pensato, guarda. Che credo sia San Giuseppe, ma mi sembra, sono quasi sicuro. Confermo, il 19 marzo di solito è San Giuseppe. Quasi sicuro. Giuseppe ha 37 anni, responsabile del personale, detto il professionista. Sì, ah, il professionista, per tutta una serie di motivi, anch'io ma voglio... non professionali. Ah, ok. Ma invece anch'io voglio essere chiamato l'Ariele il professionista. Va bene, ti introdurrò nel mio corso. Allora, di professionalità. Tu senti da tu ascolti da Milano e Giuseppe mi ha fatto la battuta del secolo perché Giuseppe ha fatto squillare il telefono 10 minuti fa. tipo. Allora io ero in diretta, stavo parlando con l'altro, quando ho ripreso la chiamata gli ho detto: Giuseppe, guarda, scusa se ti ho lasciato in attesa, e lui mi ha risposto: beh, così almeno ti sento meglio. Perché hai problemi di ricezione? Ogni tanto, che volevo esprimere la mia solidarietà ai colleghi liguri, però rassicurarli del fatto che qui a Milano, andando da nord a sud, come arrivo all'imboccatura della tangenziale ovest, incomincia a perdersi il segnale. Ai, ma appunto, ma non riuscite nemmeno a sentirci, allora perché ascoltatelo? Ma va a pezzi, guarda. Ma come fate? Guardate che questa cosa è economicamente ingestibile, cioè se la gente non sente una radio, cambia. Questa ma è una io regola. resisto, cioè cerco. Ma perché? Il problema è la coda, perché la coda non ti consente di seguire il segnale con la giusta rapidità, però se no butto su un CD e via, ma la concorrenza mai. Una cosa che ricordo spesso per capire se la macchina davanti a voi in coda sta ascoltando Rock FM oppure no, che di solito indietreggia un pochino, che la sta perdendo, torna un po' indietro a vedere se la prende. E allora perché mi ascolti Rock FM? Diccelo, non titubare. Allora, io ascolto dalla prima ora, nel senso sia la mattina presto sia dal primo giorno di Rock FM. 17/18 anni fa, ormai, visto che entriamo nel 18esimo, e sempre ascoltata più o meno prima quando studiavo, adesso quando vado a lavorare, e ascolto voi dall'inizio, e devo dire che all'inizio non ero abituato perché la mattina non c'era nessuno, certo, no? Per cui ci ho messo 2-3 giorni ad abituarmi, ma poi siete diventati una degli elementi fondamentali dell'andare a lavoro, insomma. Mi fa piacere. Quello che rende più piacevole un lungo passaggio in macchina piuttosto che farsi 2 risate ascoltando il maestro e te, insomma, che anche te non sei male, non ti sottovalutare. Grazie, ma il maestro magari è il maestro. Dovresti sfoltire la barba ogni tanto, però bisogna solo ricordarselo, quello è un problema di ricordarselo alle 5:30 del mattino. Solitamente penso ad altro, anzi solitamente non penso niente a quello. Anche io vado su passaggi automatici la mattina presto, mi sveglio, mi lavo, mangio ed esco, però non è che abbia una grande idea di quello che sto facendo, lo faccio e basta. Giuseppe, grazie mille della testimonianza e speriamo di sentirci presto. Volentieri. Ciao caro. Ciao, buona giornata. And I had so much time to sit and think about myself. And then there she was, like double cherry pie. Yet there she was, like disco superfly. I smell sex and candy hair. Who's that lounging in my chair? Who's that casting deep fear stares in my direction? Mama, this surely is a dream. Yeah, mama, this surely is a dream. Dig it. Hanging around downtown by myself. I've had too much caffeine and I was thinking about myself. And then there she was, in platform double suede. Yeah, there she was, like disco lemonade. I smell sex and candy hair. Who's that lounging? Yeah. Who's that casting deep fear stares in my direction? Mama, this surely is a dream. Yeah, mama, this surely is a dream. Yeah, mama, this surely is a dream. Yeah. I smell sex and candy hair. Who's that lounging in my chair? Who's that casting deep fear stares in my direction? Mama, this surely is a dream. Dig it. Yeah, mama, this surely. Yeah, mama, this surely is a dream. Yeah. Yeah, mama. Antoni, bisogna correre ai ripari. Ma perché? Gli ascolti di Pane Burro e Rock and Roll stanno crollando. Aiuto. Non ci sente più nessuno. Non è possibile, perché? Isaac Rizzi, nostro caporedattore, bisogna giocarsi una carta. Quale? Come? Mi dica. Non so cosa chiederle, sono preoccupato. Si calmi. Mi dica. La pruderie. La pruderie salverà questo programma radiofonico. Sì, sì, è vero, giochiamoci la carta del voyeurismo. Strano ma vero, sigla! Girava film porno in divisa. Oh. Poliziotta licenziata. Quando l'ha vista recitare si è accorto che quel corpo sinuoso, quelle movenze e quel viso sensuale visti in un filmato porno gli erano familiari. Ebbene sì, era proprio la collega, la protagonista del film porno che l'uomo stava guardando. Peccato però che Livia Kovacs, 36 anni, poliziotta di giorno e attrice porno di notte, ci abbia rimesso il posto di lavoro da agente della polizia di Budapest. L'uomo infatti, dopo essersi gustato la pellicola porno, l'ha denunciata ai superiori. Beh, è stato doppiamente porco, per questo ci piace. Ora lei, la signorina o signora in divisa, è diventata una star dell'art. Del porno! Del porno! Ad aggravare la posizione della Kovacs, il fatto che nel film interpretava proprio la parte di una poliziotta in versione sadomaso. Usava divisa, manette e col manganello d'ordinanza sottometteva uomini e donne. Non mi aspettavo di essere licenziata, ma la cosa non mi preoccupa più di tanto, ha detto la Kovacs. Dopo l'uscita del film ed il successivo scandalo, ora continuo a ricevere tantissime proposte per interpretare nuove pellicole, ricordiamo, di tipo porno! Come ci segnala Isaac Rizzi. Però non va bene, ragazzi. Pane, burro e rock and roll era una trasmissione culturale una volta. Beh, forse anche il porno fa cultura. Mettiamolo il così, porno dai. È cultura. Il porno è cultura. Mi piace. Found, and I feel when the dogs begin to smell her. find it, to find it, to find it. When the dogs find her, got some time to do it for tomorrow. To find it, to find it, to find it. It's Stone Temple Pilots. Flash, versione acustica. Giornata strana, ragazzi. Strana. Si fa strano oggi. Ciao dall'Ariele, vi accompagniamo anche quest'oggi fino alle 9 con la nostra colazione che risponde al nome di pane, burro e rock and roll. E una domanda: ma perché ascoltate Rock FM? Così. Ho il numero di SMS veramente impallinato di messaggi. Grazie, li custodiremo comunque. Sono sempre apprezzatissimi. Ho il numero di telefono, lo 0267091032, che continua a squillare. E ho già detto agli altri radioascoltatori che oggi purtroppo Spadino è ammalato, quindi sono qui da solo. Ciao Claude. Buongiorno. Lui è un altro di quelli che ha beccato la linea al telefono. Chiedo scusa ad altri che tra una cosa e l'altra gli ho attaccato in faccia. Claude è arrivato prima di voi. Qualcuno potrà ricordarsi di Claude, perché tu sei quello degli Iron Maiden, vero? Sì. Ti abbiamo fatto cantare gli Iron Maiden un paio di volte in diretta. Sì, sì. Dalla Romagna che conta. Sì, beh, è ovvio, la Romagna che conta è sempre presente. Ma perché ascolti Rock FM, Claude? Ma per una serie di motivi. Prima di tutto perché scopro sempre gruppi nuovi di cui ignoravo l'esistenza, e me li vado ovviamente a comprare. Ad esempio gli Skid Row, li ho sentiti da voi la prima volta. Io non sapevo che esisteva questo gruppo. E adesso vado a Skid Row, Motley Crue, insomma, Hard Rock anni 80 giù a peso proprio, a go-go. Guarda, l'immagine di averti fatto scoprire gli Skid Row mi fa veramente sviellare. Quindi qui è il problema della musica. Qua ci piace sta musica, ma allora perché? Allora la seconda domanda è: perché ci piace il rock and roll? Cosa c'ha sto rock and roll? Beh, il rock and roll è un piccolo gene che si trova nel sangue di ogni rockettaro, non si acquisisce ma si ha dalla nascita. Dici? Per me sì. Ti sta, eh? Beh, io sono cresciuto con i Metallica, poi io sono andato avanti. Cioè. E secondo te c'è qualcuno che questo gene non ce l'ha? Cioè, come tipo, esistono le persone stonate, le persone intonate, esiste qualcuno che non ha dentro questo genere del rock and roll? Per me sì, esistono e come. Esistono e come? Sì, ne conosco qualcuno. Proprio che dici, nemmeno a forzarli a dargli il disco giusto, secondo te, gnafamo? No, gnafamo proprio. Gnafamo. Però siamo in tanti. È una cosa innata, deve essere una cosa innata. Va bene. Claude, grazie mille, speriamo di sentirci presto, come sto dicendo a tutti. Beh, un altro dei motivi per cui ti ascolto, perché mi piace romperti le scatole. Questo è un piacere, guarda. È un piacere mio contraccambiare il rompimento di scatole. Ciao caro. Va bene, ciao, ciao. Tra i vari casini di oggi non ci stiamo occupando del fatto che Carla ieri ha dato 4 numeri e 4 numeri sono usciti. Scusate se è poco, ma la sentiremo oggi. Carla, preparati, e chiediamo anche a te perché ascolti Rock FM. Arrivo, rispondo, Spadino è ammalato. I'm forte dubbio e dopo un tot numero di sms non me li fa più vedere. Quindi sai che faccio? Adesso me li stampo, li cancello, dovrebbero arrivare gli altri. No, perché ci tengo, voi li scrivetemi. Solo che è calibrata un limite. E quest'oggi è stato ufficialmente superato. Buon compleanno, pane, burro e rock and roll. Un anno della nostra trasmissione. E vogliamo sentirvi tutti quanti. Poi se non facciamo in tempo a sentirvi oggi, magari approfondiamo nelle prossime giornate. Andiamo a Genova, c'è Gian. Però devo chiedere scusa a un altro, Gian da Genova, che stavo sentendo prima e che gli abbiamo attaccato il telefono in faccia. Speriamo di ribeccarlo dopo. Ciao, altro Gian da Genova, come va? Buongiorno, buongiorno Ari, buongiorno a tutti, auguri. Grazie. Buon compleanno. C'eri la prima puntata? C'ero, ci sono sempre stato, già da prima ancora. Mi sa di sì. Sì, sì, vai tranquillo. Che senti, mi hai beccato i biglietti per andare all'arena a vedere Kiss? Ho avuto abbastanza fortuna perché li ho beccati sia per Verona che per Milano. Ah, tutti e due te li spari? Non con pochi sacrifici, ma ce l'ho fatta. Costano un po' i biglietti, eh? Ma ti dico, a Verona sono riuscito a prendere solo la gradinata perché purtroppo non avendo internet hanno aperto prima le prevendite online, certo. Poi nei punti vendita, quindi sono riuscito solo a prendere la gradinata. Certo. Invece per Milano ieri sono riuscito a prendere la prima fila. Complimenti! Ora scateno invidia, mi dispiace. Sei uno stenlista o un simoniano? Io purtroppo sono nella scuola. Mi piace il periodo senza il trucco, diciamo. Addirittura unmasked. Sì, sì, sì. Io Eric Singer è il mio idolo, il batterista. Ok. Senti Gian, veloce perché non abbiamo purtroppo tempo, abbiamo il test attitudinale da fare tra poco. Sì. Perché ascolti Rock FM? Io te l'ho detto già via SMS. Ho scoperto che c'è gente che è più pazza di alcune persone che conosco. E da lì dici, controlliamoli, si sa mai. Controlliamo e poi è inutile, ragazzi, ci si diverte da morire. Mi passo le 2 ore, perché io vi ascolto tutte le 2 ore, sì. Sono uno di quelli da tempo pieno, girando con camion, e è inutile, cioè la gente mi becca che rido da solo ogni tanto quando sono in coda, così chissà cosa pensano. Gian, no, grazie della testimonianza, allora. Figurati. E speriamo di sentirci presto. Ciao! Ok, ciao, Ria, auguri ancora. Mi piace questo compleanno di PBR, eh? E lo vorrei festeggiare con una canzone così. Sì. Cappellino in testa e giù di birra. capita a volte che le frasi più incisive della storia del rock vengano fuori così. Cioè uno non ci pensa più di tanto, se le trova lì. Ma sì, distinto. Vuole citare Vasco Rossi anche quest'oggi? Ma non so. Sì, lo faccia, la prego. Ma le canzoni? Nascono da sole, sono come i fiori. Il nostro filosofo di riferimento, appunto Rossi, dottor Vasco, ci dice che spontaneamente vengono fuori già con le parole. Ma la curiosità di quest'oggi, sì, del test attitudinale riguarda Nevermind, il disco che famoso nel 91 consacrò il successo dei Nirvana, del grunge, dell'alternative rock in generale. La canzone più celebre dell'album è sicuramente Smell Like Teen Spirit, ma forse non tutti sanno perché Kurt Cobain scelse proprio quel titolo. Ipotesi A: perché gli fu suggerito da Donna Rosa, una cartomante di Seattle che Cobain frequentava spesso e regolarmente. Oppure ipotesi B: suggerito dal titolo di un giornale, del giornalino della scuola, dove un compagno scanzonava le composizioni del giovane Cobain dicendo che, aperte le virgolette, puzzavano d'adolescenza. Smell like teen spirit, appunto. O infine ipotesi C: Kurt Cobain trasse ispirazioni da un muro vicino a casa sua che riportava la scritta Kurt smells like teen spirit, messaggio lasciatogli lì da una ragazza. Ipotesi A, B o C? Riflettete, perbacco, pensate, spremetevi le cervella, tanto la soluzione esatta l'avrete solo fra poco. Giusto. La risposta giusta a poco dopo. E allora?